Questa è la storia di Mario il precario, col culo per terra e le gambe all'aria, che da 3 mesi non ha più il salario e ricomincia di nuovo il calvario. Sfoglia e risfoglia le lingue, i giornali, uffici, agenzie interinali, www.addentistretti, cerca lavoro pure in internet. Gli ultimi euro, sti maledetti, mangia il telefono, l'ATM e biglietti, ma di lavoro manco una minchia, passano i giorni e stringe la cinghia. Stringe meninge, si mise a pensare, qualche cosa io devo inventare, io di rubare non sono capace, sono alla fame ma voglio la pace. La chitarra sì la suono, c'ho una discreta voce, qualche cosa farò di buono per non finire in croce. E si mise a cantare la sua storia, la storia sua è di milioni di mari, senza lavoro e senza graduatoria, la storia di milioni di precari. Sono disoccupato, aggrappata ad uno scoglio, e non venite a dirmi che lavorar non voglio, qualsiasi offerta accetto pur di restare in vita, aspetto in panchina per rientrar nella partita. La laurea, il successo, carte per il cesso, non so che cosa fare e io non voglio rubare. Mio padre con mia madre non vollero l'aborto, così io venni al mondo per non fare un torto. E come me son tanti, con ansia, rabbia e pianti, che ancora stanno buoni ma che non sono santi. Se lavorare è giusto, come pagar l'affitto, è giusto dover vivere, la vita è un diritto. Signori del governo, imprenditori e padroni, ma date un lavoro a questi figli buoni, perché se si continua ancora di questo passo, questa nostra Italia arriva allo sconquasso, perché i disoccupati che ora stanno buoni arriveranno sull'orlo delle disperazioni. Loro chiedono lavoro, se questo non avranno, sappiate di sicuro che si ribelleranno.